Canto sesto della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sesto. Al tornar della mente, che si chiuse dinanzi alla pietà dei due cognati, che di tristizia tutto mi confuse, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova e ch'io mi volga, e come ch'io guati. Io sono al terzo cerchio della piova eterna, maledetta, fredda e greve. Regola e qualità mai non le nuova. Grandine grossa, e acqua tinta, e neve, per l'aer tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera, crudele e diversa, con tre gole caninamente latra sovra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi ha vermigli e la barba unta ed atra, ed il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti, gli scuoia e disquastra. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un de lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, le bocche aperse e mostròcci le sanne, non avea membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro le bramose canne. Qual è quel cane ch'abbaiando agugna e si racqueta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende pugna, cotai si fecer quelle foci lorde dello demonio Cerbero, che introna l'anime sì che esser vorrebber sorde. Noi passavamo su per l'ombre ch'adona la greve pioggia e ponevamo le piante sopra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuorch'una, a sedersi levò ratto ch'ella ci vide passarsi davante. «O tu che sei per questo inferno tratto!» mi disse. «Riconoscimi, se sai, tu fosti prima ch'io disfatto fatto!» Ed io a lei. «L'angoscia che tu hai, forse ti tira fuor della mia mente, sì che io non par che io ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente luogo s'è messa ed ha sì fatta pena, che s'altre maggio nulla è sì spiacente. Ed egli a me: la tua città, che è piena d'invidia sì, che già trabocca al sacco, seco mi tenne in vita serena. Voi, cittadini, mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Ed io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fe parola. Io gli risposi: «Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì da lagrimarmi in vita, ma dimmi, se tu sai, a che verranno i cittadini della città partita, se alcun v'è giusto, e dimmi la cagione, perché là tanta discordia assalita.» Ed egli a me: «Dopo lunga tenzone verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli, e che l'altra sormonti con la forza di tal che testè piaggia. Alto terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga e che n'adonti. Giusti son due, e non vi sono intesi. Superbia, invidia ed avarizia sono le tre faville ch'hanno i cuori accesi. Qui pose fine al lacrimabil suono. Ed io a lui: ancor vo che mi insegni e che di più parlar mi facci dono. Farinata, il tegghiaio che fursi degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo, El Mosca e gli altri che ben far poser gli ingegni, dimmi ove sono e fa ch'io li conosca, che gran desio mi stringe di sapere se il ciel gli addolcia o lo inferno gli attosca. E quegli: ei son tra l'anime più nere, diversa colpa giù gli aggrava al fondo, se tanto scendi li potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, pregoti ch'alla mente altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. Li diritti occhi torse allora in biechi, guardommi un poco e poi chinò la testa. Cadde con essa a par degli altri ciechi, e il duca disse a me: più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba, quando verrà la nimica podesta. Ciascun ritroverà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Sì trapassammo, per sozza mistura dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perché io dissi: maestro, essi tormenti cresceranno ei dopo la gran sentenza, o fien minori, o saran sì cocenti? Ed egli a me: ritorna a tua scienza, che vuol quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene e così la doglienza. Tutto che questa gente maladetta in vera perfezion giammai non vada, di là più che di qua essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai ch'io non ridico. Venimmo al punto dove si digrada. Quivi trovammo Pluto, il gran nemico. Fine del canto sesto.